all'Unipol Arena di Casalecchio si terrà la 7ª edizione della Indicativa Trade, che è la più importante fiera italiana del settore cannabico. Quindi si parla di canapa, ci sono più di 200 espositori da tutto il mondo per quanto riguarda prodotti di canapa, derivati dalla canapa o strumentali ad essa, quindi dai semi da collezione a tutta la parte alimentare, la parte cosmetica, gli impianti per la coltivazione di cannabis, e a contorno vi è un programma per 3 giorni di conferenze, dibattiti, seminari che appunto accompagnerà i 3 giorni di fiera. Perché comunque la canapa, diciamo, non si ferma all'aspetto ludico, ma è una cosa molto duttile che può essere usata tanto per l'ambito alimentare quanto per il vestiario, no? Sì, beh, diciamo che la parte, diciamo, ludica ricreativa la fa da padrona anche all'interno della fiera, anche quest'anno, oltre ovviamente a questo aspetto declinato in tutti gli strumenti possibili e immaginabili, vi è anche la parte della canapa cosiddetta buona, ecco, vista come buona dai ben pensanti, ossia tutta la parte alimentare derivata dal seme piuttosto che la cosmetica, e ovviamente ci sarà tanta cannabis light, perché a Bologna, ricordiamolo, 2 anni fa nacque quello che ormai è un fenomeno, ossia l'infiorescenza di canapa venduta liberamente in Italia. Nacque 2 anni fa proprio a Indicativa Trade, e ecco, questo settore anche commerciale sarà ben rappresentato quest'anno in fiera. Però, sebbene sia un mercato in espansione, diciamo che le leggi non riescono bene a tenere il passo, anzi sembra certe volte dalla politica che si voglia limitare un po' questa espansione. Sì, è ancora così, questo è un mercato, è un fenomeno nato apposta, perché le leggi pareva non permettessero la possibilità di commercializzare l'infiorescenza di cannabis, non si è arrivati, diciamo, a definire, ecco, precisamente che cosa si può e che cosa non si può fare ancora. Di certo è un fenomeno che non può essere cancellato con un tratto di penna. Ricordiamo, e come il 30 e 31 di maggio la Corte di Cassazione a Sezione Unita deciderà definitivamente su questo mercato, se tenerlo aperto, tenerlo chiuso o tenerlo aperto a condizione. In Indica Sattiva, venerdì, sabato 13, sabato pomeriggio alle 15, terrà una conferenza con i 4 più importanti avvocati italiani che si occupano, specializzati appunto del settore, per fare il punto della situazione dal punto di vista della legge e della giurisprudenza. Sì, anche perché per quel che riguarda proprio la cannabis light, il mercato si è espanso molto negli ultimi 2 anni, in tutta Italia. Ah beh sì, pensa che ad oggi sono almeno 2000 le nuove società agricole nate solo per la produzione di cannabis light. Il numero dei grow shop o negozi legati alla canapa sono raddoppiati dal 2017 al 2018. Ora si contano 700 punti vendita, quindi sì, è un fenomeno ormai importante, e anche qui verranno resi noti gli ultimi numeri, gli ultimi dati, ecco, di questo fenomeno, che poi verranno appunto consegnati alla politica perché, insomma, batta un colpo, ecco, entri in contatto, in connessione con questa realtà e riconosca che in fin dei conti la questione della cannabis light è una questione buona, buona per il paese, buona per l'economia, buona per i posti di lavoro. In 2 anni non c'è stato un abuso segnalato legato alla cannabis light, per cui insomma mi sembra che sia una sorta di caccettina alle streghe in versione veramente soft, inutile e stupidotta, ecco. Quindi si parlerà anche di questo ovviamente nelle 3 giorni di conferenza Indicativa Trade dal 12 al 14 di aprile.